Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Oggi è lunedì e come sempre il primo appuntamento della settimana ce l'abbiamo con l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori. Con noi al telefono Carlo Garofolini, benvenuto Carlo. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Torniamo a parlare con te di un argomento che insomma ci ha interessato per più volte, anche perché più volte abbiamo segnalato i termini di scadenza, quelli possibili, probabili, per chi doveva cambiare le lire in euro. È una vicenda lunghissima che dura da anni. Sì, una vicenda lunghissima che sta impegnando l'associazione da parecchi anni, ma che in quest'ultimo mese, più che mai, avendo dato assistenza a oltre 150 persone, e di fatto 150 persone che stanno aspettando, anche per effetto di una pronuncia di una sentenza suprema della Corte che ha riaperto i termini per poter avere le lire e quindi procedere alla conversione, ma che di fatto ancora risulta tutto bloccato, perché come solito in Italia quando si tratta di ricevere ma non dare, certamente la burocrazia ha sempre fatto storia. Quindi la vicenda continua, è una telenovela. La vicenda continua perché la Banca d'Italia, sulle istanze presentate dall'Adico, ha detto che sì, c'è stata una sentenza, ma che fin tanto che il Ministero dell'Economia non sblocca, insomma, quelli che sono per effetto dei decreti attuativi e la pratica, non sa come procedere. Noi oggi siamo qui in collegamento con te per dire che l'Adico ha inoltrato proprio ieri, sabato esattamente, ha fatto partire la raccomandata verso il Ministero, dove sollecita il Ministero a procedere a sbloccare un po' questi decreti, perché riteniamo giusto che le sentenze si debbano rispettare, ma soprattutto riteniamo giusto che le persone abbiano i loro soldi indietro. Quindi una vicenda che ci ha impegnato per tutta gran parte l'inizio del 2016, ma che si sta trascinando da molti anni e che ancora non vorremmo insomma essere qui a doverla riprendere fra qualche anno, perché insomma, come tutte le cose, c'è un'inerzia che rasenta quasi il paradosso. Ecco Carlo, mi confermi che se per caso qualcuno oggi come oggi dovesse incappare in un piccolo tesoretto nascosto dal nonno, in soffitta, in cantina, ormai quelli non si possono più cambiare? Allora, questa è la versione, che è l'interpretazione che diamo noi rispetto a quella che è una sentenza che aveva stabilito una riapertura, una finestra tra la fine del 2015 e 2016, che si concludeva il 28 gennaio 2016. Però è anche vero che piuttosto di lasciar perdere e buttare via questi soldi, un tentativo di conversione noi comunque lo proponiamo sempre dover fare. Certamente vorremmo essere qui fra poche settimane ad esultare su quella che, come detto, è una vicenda che si conclude da molto tempo, perché mai ci saremmo dovuti adesso essere qui a raccontare che, stanchi di queste lungaggini, stiamo sollecitando il Ministero anche per dare una risposta a tutte quelle persone che insomma si sono rivolte a noi e con noi hanno la nostra fiducia. Speriamo che insomma possiamo concludere qualcosa prima di Pasqua e magari dare in anteprima la lieta notizia. Sì, perché come sempre ci sono due pesi e due misure, insomma, se un giudice a un privato cittadino ordina qualcosa e che qualcosa deve essere eseguito subito, il cittadino deve farla sta cosa. Però poi quando c'è la burocrazia di mezzo, lo Stato stesso, le cose prendono un'altra piega. Sì, soprattutto anche perché qua siamo di fronte a quella che è stata una pronuncia della Suprema Corte che insomma non ha lasciato dubbi, e in questo senso continuare ad appigliarsi su quelle che possono essere delle lungaggini determinate da una burocrazia che non è mai a favore del cittadino, certamente non ci pare un bel messaggio. Noi riteniamo che insomma qua bisogna intervenire, grazie anche al tuo lavoro e non solo, anche a quello dei nostri esperti, ci auguriamo insomma di concluderla a breve, perché riteniamo che dal 2011 ad oggi è passato un periodo abbastanza sufficiente per poterla insomma concludere definitivamente e andare avanti con altre nuove battaglie. Va bene, speriamo che, come dicevi tu, si possa esultare tra breve, è un augurio che facciamo all'Adico e a tutti quelli che hanno ancora dei soldi da cambiare e da trasformare in euro dalle vecchie lire. Grazie quindi all'Associazione Difesa Consumatori, che si avvale del sito associazionedifesaconsumatori.it, grazie a Carlo Garofolini, che ritroveremo tra qualche giorno. Grazie a te Francesco e un saluto a tutti. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.